Questo è uno dei motivi per cui mi piace venire qua, perché non esiste che tu entri in un bar alla mattina e senti musica diffusa Billie Holiday e dico no, questo è il mio bar, questo è il mio bar. Cioè non è possibile che non sento, che ne so, di quelle schifezze che mandano adesso. E quindi, ecco, stamattina c'era una bella canzone di Billie Holiday. Questa qui che non so come si chiama, questa è una bella canzone. Poi ce ne sono tante, a me la musica mi piace tantissimo. Io quando vengo, spesso a loro chiedo, ma cos'è sto pezzo? Chi è che lo sta suonando così quando mi piace qualcosa? Io ho suonato tanto la chitarra classica ai tempi, poi dopo l'ho smesso perché sono rimasta incinta e col pancione non potevo più, poi bambino piccolo e basta. Il destino delle donne. Adesso potrei riprendere, però c'ho ancora una chitarra. Pensa che fortunata che sono stata. Io avevo due chitarre in casa, no? Una era una chitarra, sai quelle lì, brutta, ma proprio brutta, di quelle che ti, magari se compri tre cartoni di vino ti regalano quelle schifezze lì. E una era una Ramirez che mi aveva regalato mio papà, me l'aveva portata, fatta da un liutaio a mano dalla Spagna, il paese della chitarra classica, Segovia e compagnia. Sono venuti i ladri in casa mia anni fa, no? Una sera. Allora mi hanno rubato la schifezza e quella lì bella me l'hanno lasciata. Ho detto beata ignoranza. Ero troppo contenta, guarda. Ma sì, che se la portino via quella schifezza. Io non ho mai frequentato bar, non sono mai andata nei bar. Però andavo, vabbè, avevo il locale, sempre i locali così, no? Poi quando avevo finito di lavorare, ai tempi si andava di notte in giro sui navigli, non era come adesso, magari avevi il tuo locale, avevi quell'altro, andavi lì, si giocava a monetine, tutte queste cose. Adesso qua, da loro, è la prima volta che frequento un bar, perché sono quelle cose che fanno la differenza. Cioè, faccio un esempio, oggi sono venuta qui dopo che loro erano chiuse per il lockdown e lei mi ha, siccome a me piace il tè, alla mattina mi bevo il tè e loro senza dire niente dalla prima volta che mi hanno visto mi hanno dato questa tazzina molto British, tutta dorata, tutta così, invece di quelle robe brutte che ti danno i fornitori del caffè. Se vado in un altro bar, chiaramente mi danno una tazzina normale. Cioè, questa è una differenza, perché fa un po' la giornata, capisci? Bere un tè dentro lì. Tu dici, ma guarda queste qua, che hanno trovato questa... Cioè, entri e ti fanno questa... È bello, non lo so come dire. Insomma, questo non mi sembra un bar, mi sembra di venire a casa di una mia amica, delle mie amiche. Ciao, ciao, come va? Così, e fai colazione. Invece di fartela sempre in casa da solo, perché, vabbè, mio marito la mattina dorme sempre, e siamo solo io e lui, se no sono sempre lì da sola. Allora accendi la televisione e senti il bollettino di guerra, altro non mi piace, o guardo il telegiornale o guardo un film, ma il film alla mattina non li guardo, scorro magari i titoli, no, così dico cosa devo fare e poi dopo dico ma sì, adesso mi metto sul tè, no, devo andare giù da loro, devo andare a salutarle, devo... Mi piace proprio iniziare la giornata con questo rito della colazione qua, anche perché magari mi metto in un angolino, posso andare avanti a leggere oppure a chiacchierare, queste cose. In un altro bar non mi trovo così bene, per quanto che magari sono sempre tutti gentili, non è che mi sa, però non so, così. È la prima volta io che frequento un bar, eh? La prima. Non ho mai frequentato bar, sempre locali, con il capolinea, con gli altri sul naviglio. Thank you. capolinea era tutto e niente, cioè niente perché non era un posto dove tu veniva, cioè tutto bello, che veniva il cameriere a servirti, il ristorante, dove si suonava il concerto, che pagavi un biglietto, entravi, no, niente di tutto questo. Era tutto perché appunto non trovavi niente di tutto questo, ma trovavi tutto il resto, cioè una cosa, è presente proprio il club di jazz con il fumo, quando si poteva fumare in fondo col sassofonista, così, ecco, era così, era però unico, ecco. Ma, infatti tutte le sere c'era tutte le sere, per la bellezza di, dunque, dal 68 di quasi 30 anni, tutte le sere, a parte il giorno di chiusura. Concerti, musica dal vivo, tutte le sante sere. Sì. Tu arrivavi, potevi mangiare, cioè vabbè, c'era un programma musicale magari, perché ai primi tempi non c'era il programma musicale, perché mio padre era un batterista, era un musicista, ex musicista, perché poi dopo ha aperto questo posto, e un giorno con un suo amico, un tal Nando De Luca, che era l'arrangiatore del Clan di Celentano, quello che ha arrangiato il famoso pezzo di Azzurro, sai quel Azzurro? È passato da questo posto qua e ha chiamato mio papà perché era suo amico, gli ha detto: sai che c'è un posto là sui Navigli che è una betola, però deve essere fantastico a farci del jazz, perché erano tutti e due appassionati di jazz. Ma allora tu dovevi solamente o andare nei night, ma non c'erano questi locali dove si suonava, e diciamo che loro sono stati capistipiti, hanno aperto così, dove tu potevi andare, chiacchierare, mangiare qualche cosa e intanto ti ascoltavi jazz, non so, c'era gente come, magari finivano di suonare quelli che erano lì, poi poteva arrivare, che ne so, Jerry Mulligan, capito, fare una suonatina, su di sopra dormiva Chet Baker, che accordava la tromba vicino alla cucina dove lavoravo io, non so se mi spiego. E basta, così, è stato veramente unico vivere una cosa così. Scusami, tu, sono stata molto fortunata. Mi sembra, sì. Sì. Ma tu, quindi i tuoi l'hanno aperto, l'hanno fondato? Sì, più che altro mio padre. Poi mia mamma lo aiutava, chiaramente. Però, diciamo, la genialità è stato mio padre, che ha detto: non facciamo il solito posto dove uno viene, paga il biglietto, si siede così come un manichino, ascolta la musica, si alza e se ne va. Facciamo un posto dove uno può anche chiacchierare, intanto sente il jazz in sottofondo, se vuole mangia, se vuole no, se vuole bere qualcosa, se no no, hai capito? E non c'era niente a Milano di questo genere, perché ripeto, o andavi al night, o andavi al ristorante, o andavi, niente, nei cabaret, tipo il Derby, ma ce n'era uno, capito? Che facevano jazz non ce n'era, perché lui era innamorato del jazz. Lui era toscano e gli avevano portato da Livorno dei dischi dall'America, i primi dischi dall'America. E quando lui ha sentito i primi dischi di Cupra, delle jazz band di lì, ha detto, fulminato, ha detto: questo è il mio lavoro. E non era bar, era un ristorante, era tutto un po' insieme, capito? Si mangiava, si ascoltava del jazz, però era bella l'atmosfera, era una cosa unica, perché noi vivevamo praticamente, siccome era aperto solo di sera, quindi si apriva verso le 8:30 e prima mangiavamo noi, perché dopo dovevi lavorare, arrivava gente, dovevi servirli, ascoltare, pulire, fare disfare, no? E c'erano i musicisti tutte le sere, i camerieri, i musicisti tutte le sere, e quindi tutte le sere alle 7:30 si mangiava, quindi tavolata con musicisti, camerieri, gente che faceva le pulizine e noi della famiglia, tutti i giorni così, per, fai conto, per quasi 30 anni. Cioè, infatti, quando l'abbiamo chiuso, che io poi mi sono ritrovata in casa da sola con mio marito, sai che ho fatto fatica? Veramente, ho fatto fatica. Dopo mi sono abituata, perché vabbè, però solo in due, cioè proprio. Ricordo che andavamo in cucina, facevi saltare la pasta, eravamo sempre in 20 tutte le sere, le tavolate. Poi si parlava, poi loro sapevano tutto di tutti, eh. Non so, magari io gli dicevo a mia sorella, oh allora, siccome allora eravamo ragazze, allora quello là ti ha telefonato, gli ha mandato un bigliettino, allora gli altri, allora Laura, ti sei fidanzata con quello là o no? Cioè, una comune, hai presente? Uguale, guarda, era appena finito il periodo delle comuni e noi ne avevamo lì una in prima fila, in prima persona da vivere. Bellissimo, guarda. Io mi ricordo che mi venivano a trovare le mie amiche, tante volte venivano, no? Che lavoravano negli uffici, così, e mi dicevano, quelle che magari avevamo fatto la scuola assieme, e mi dicevano, mamma Angelica, non sai quanto sei fortunata, cioè noi lavoriamo in ufficio, poi andiamo a casa a far da mangiare al marito, la domenica l'arrosto dalla suocera e basta, questa è tutta la vita che c'è. Dicevano, ma tu qua tutti i giorni così, sai come ti diverti? Perché poi venivano i musicisti, venivano attori, venivano un sacco di anche di gente famosa. Senz'altro avrai sentito parlare purtroppo di quella vicenda tragica, di quelle bombe che sono saltate alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Beh, esatto. Noi 1969, 12 dicembre. Esatto, 12 dicembre. Noi abbiamo aperto quell'anno, 3 giorni dopo. Con una paura tremenda, perché la gente aveva paura, non usciva di casa, c'era un clima di terrore che non, cioè si toccava proprio, perché la prima volta che succedeva una cosa così. E era saltato per aria un sacco di gente, e a parte il dispiacere, la paura, però un sacco di, proprio un brutto clima. Però oramai avevamo, mio papà aveva preparato tutto e abbiamo aperto lo stesso. E poi piano piano, no, è stato un pochino più distesa la cosa, poi è passato quel periodo e poi venivano tutti i musicisti a trovarlo, perché lui era appunto musicista, era famoso. Allora venivano tutti a trovarlo, venivano lì e da lì andavano su sul palco a suonare, eccetera, e da lì si è creato questo famoso club Capolinea Jazz. E avevo 23 anni circa, 20, 22, 23, ecco. E quando tuo papà ha aperto, tu hai iniziato da subito ad aiutarli? Sì, dopo neanche un mese che lui andava lì, siamo andati là da subito. E pensa che io ho ancora, perché quando mi ricordo la prima sera che sono andata ad aiutare mio padre, io abitavo dall'altra parte di Milano rispetto al Capolinea, che era lì in Piazza Negrei. Ho preso il tram, perché lui mi ha dato tutte le indicazioni, mi ha detto prendi il tram, così così. Prendo il tram, scendo al Capolinea del 19, allora, mitico 19, in Piazza Negrelli. Sì, avevo 22 anni, li avevo appena fatti il 4 novembre, infatti li faccio fra 3 o 4 giorni, un po' diversi dai 22, però se ne frega. Quando hai vissuto bene sei solo contenta e non hai rimpianti, guarda. E anzi, è un privilegio diventare vecchi. E quando sono arrivata lì, mi ricordo che appunto erano i primi di novembre, avevo fatto gli anni da un giorno o due, una roba così, c'era una nebbia e io dicevo, ma dove mi ha mandato mio padre? Dove mi ha mandato? Però ho seguito le sue indicazioni, arrivo lì nella piazza, scendo, cerco sto locale che non si vedeva, c'era una nebbia, poi mi è venuto incontro lui e quando sono entrata mi ha detto, guarda, c'è da lavare un po' di posate, no, così, va bene. Ho cominciato a lavare le posate, entrano due ragazzi e mi fanno, non c'è il Giorgio Vanni, che era mio papà? E io gli dico, sì, c'è, insomma, tu non puoi credere, sai che io sono ancora, mi vedo ancora con questi due ragazzi, sì, il Carlone, e poi lo chiamavamo Carlone, e il Paolo Rezzi, che sono due che amano la musica e ancora andiamo ai concerti, parliamo di musica, poi ce ne sono degli altri di quel gruppo lì, noi parlavamo sempre di blues, di jazz, queste cose qua, perché loro avevano parlato con mio padre di musica e quindi lo venivano a cercare, perché in giro c'era la gente che ascoltava i Pooh e Piccola Katy, per cui quando tu trovavi uno che ascoltava blues o jazz, hai capito, se ti piaceva, è chiaro. E mi ricordo che abbiamo cominciato a parlare, ancora adesso ci troviamo e parliamo ancora di musica, andiamo ai concerti, tutto, guarda, bellissimo. Veniva il Bettinelli dall'Inghilterra con i primi dischi dei Cream ad ascoltarli. Genitori avevano il capolinea in piazzale Negrelli, no? Tu facevi la piazza, poi dove si fermavano i tram, e subito dopo c'era un tabaccaio bar che una volta aveva le bocce di dietro, sai, quelli di una volta, proprio con tutte queste cose. Io non sono mai entrata dentro lì, proprio praticamente mai, non ero mai entrata, perché il caffè lo bevo in trattoria, in capolinea, adesso il caffè lo bevo a casa pure là. Poi, e invece la colazione vengo qui a farla. Una volta, prima non ho ricordi di bar, ce li ho di questa volta qua, perché è stata particolare. Una volta era venuto Iannacci, Enzo Iannacci, no? Siccome veniva spesso in capolinea, una volta era venuto. Perché dovevano fare come delle prove, no, così, e mi aveva chiesto il locale al pomeriggio per provare. Quando è arrivato non c'erano ancora i suoi musicisti per provare, ma mi fa: dai, andiamo a bere un caffè. E io gli ho detto: guarda, mi prendi la sprovvista, io non so qua i bar. Mi dico: ma sì, lì c'è un tabaccaio, andiamo. E lui era già molto famoso, no? E siamo andati lì al tabaccaio a bere un caffè, io e lui, ma così è normale, no? No, un caffè, ciao, arrivederci. Guarda, come se fossi andata al bar a bere il caffè con la Madonna. Cioè, il giorno dopo c'era tutto il quartiere che sapeva che io ero andata con Iannacci a bere il caffè. Io non ci avevo mica pensato, perché non ero mai entrata in quel bar, non pensavo che mi conoscessero. Sì, magari qualcuno sapeva che ero lì con i miei al locale, però, e invece è stata una cosa. E allora da quella volta lì ho cominciato ad andarci qualche volta, perché mi piaceva, c'erano le bocce di dietro, era diverso, mi piaceva, hai capito? Questo è il ricordo che ho del bar, il bar. Cioè, siccome veniva sempre, non era una cosa... Lui era molto amico di mio padre e tutti i suoi musicisti che quando suonavano con lui facevano il cabaret, sai che lui faceva tutte quelle canzoni, ho visto un re, vengo anch'io, tutte quelle cose lì, che non era jazz, no? Erano, i suoi musicisti quando finivano di suonare con lui, di lavorare con lui, venivano tutti a suonare jazz, il Pino Sacchetti, Paolo Tomelleri, è tutta gente che adesso... Tomelleri è nell'orchestra di. Era nell'orchestra di Intra. E poi, il Pino Sacchetti, anche lui era sempre in televisione nell'orchestra della Rai, Rigon. Quella gente lì suonava con lui perché dovevano mangiare, per cui facevano quelle robe. Poi quando finivano, venivano lì. E allora io li avevo sempre lì, per cui per me avere lì lui e i suoi musicisti era una cosa normale, capito? Non era una cosa strana. Prima non strana. Era così, ma sai quante volte me lo sono chiesto? Era proprio tutto diverso, perché non c'era, non so come dire, non c'era tanta burocrazia come adesso, ce n'era molto di meno. Poi non ti... Se facevi, non so, per esempio, se facevi qualcosa che non andava a livello di multe, di verbali nel locale, cioè faccio un esempio. Una sera al locale, e quando non era ancora grande ma era più piccolo, è entrato dentro Arblecchi, uno dei più grandi batteristi della storia del jazz. Mio padre a momenti sviene, se fosse entrata Marilyn Monroe non avrebbe avuto quella reazione lì, no? Comunque questo si mette a suonare così, dopo un po' arrivano i vigili e dice: guardi, ci hanno chiamato dalle case qua vicino perché rumori qua e là. Mio padre gli ha detto: guarda, fai quello che vuoi, ma non puoi far interrompere Arblecchi. Per fortuna uno dei vigili era appassionato di jazz, cosa rarissima, però vabbè, è stato lì a ascoltare. E poi fa: purtroppo dobbiamo fare un verbale, vi lasciamo suonare però dobbiamo fare il verbale. Vabbè, fa il verbale, ma allora era tutto cartaceo, perché invece adesso con i computer ti facevano chiudere il giorno dopo, hai capito? Allora siamo potuti andare avanti. Dopo ci hanno chiamato su per la multa, rateizi, ti metti d'accordo e la cosa cambia un po'. Poi l'unica casa che c'era, mio padre è andato a parlare perché tutte le sere questo si lamentava, poveretto, doveva andare a lavorare la mattina, non riusciva a dormire. E poi è andato mio padre ad abitare lì, mio padre e mia madre sono andati ad abitare lì perché non era possibile mettere dentro altra gente. Adesso sarà una coincidenza sì o no, però io credo che adesso una situazione così è più rara che vera, cioè che tu trovi una casa dove puoi andare a vivere perché sotto puoi suonare finché vuoi. E i miei sono andati veramente ad abitare lì per tanti anni, così loro non chiamavano i vigili. C'era mia nonna, ma l'avevano messa coi tappi. Mi è venuto in mente una sera, guarda, storica proprio, storica, non me la dimenticherò mai. Pioveva come Dio la mandava. Allora mandavano i demo per ascoltare a mia sorella, che lei si occupava della programmazione musicale, ma conosceva tutti i musicisti. Allora lei ascoltava e diceva: vabbè, dai, chiamava, diceva: vieni a fare una serata. Si mettevano d'accordo sul prezzo, così veniva suonato una settimana, tre, quattro, quello che è. Una sera pioveva come Dio la mandava, arriva un taxi, scende una bella bella ragazza bionda così, no, con l'impermeabile, però era tutta bagnata, per cui si mette a chiacchierare così e becca con l'imbranato di mio marito, no, e gli fa: era strapieno il locale, stavano suonando, e lei gli fa: ma scusa, gli ha detto, ma è sempre pieno così sto locale? E lui gli fa: sì, abbastanza, gli ha detto, per fortuna, così. E lei gli fa: ma cos'è che bisogna fare per riuscire a venire qui a suonare? E lui gli fa: vabbè, ma chi è che suona? E lei gli dice: no, è mio marito che suona, il mio compagno, per cui mi piacerebbe che potesse venire qui a suonare. E lui gli fa: vabbè, guarda, fai una cosa, manda una cassetta, un demo, dice, che poi valuteremo. Allora, questa qui era Natasia Kinski, non so se... la quale in quel periodo stava... Sì, ma lui... Comunque... Sì, ma in quel periodo lei, suo marito, suo compagno di vita, era niente meno che Quincy Jones, da cui poi mi sembra che ha avuto un figlio, vabbè. E quel rimbambito di mio marito non l'ha riconosciuta e gli ha detto a una che stava con Quincy Jones, che ha scoperto Michael Jackson e compagnia bella, gli ha detto: ma digli di mandare una cassetta. Ma guarda, noi quando l'abbiamo visto parlare con questa, io mi ricordo il cameriere che mi fa: senti, io non sono ubriaco, ma mi sembra che Stefano sta parlando con Natasia Kinski. Gli ho detto: ma smettila, gli ho fatto. Figurati se è lì che parla con la... Vado a vedere, era vero, lui non l'aveva riconosciuta, appunto perché lei era molto bagnata, pioveva quella sera, era entrata, sembrava un pulcino, poverina, si era bagnata tutta. Poi è venuta per una settimana di seguito, tutte le sere. E gli mi ha detto: ma ascolta, ma tu stai ancora con così? Ma tu l'avevi chiesto per lui? No, perché mi fa: io sto girando un film qui a Milano, magari siccome pensavo, non so, immaginavo che venisse a trovarlo, roba di questo genere, e quindi magari voleva venire lì a suonare. E gli ho detto: ma veramente quello là ti ha detto così? E mi fa: sì, mi ha detto che devo mandare una cassetta. Io non gli ho detto che era mio marito, gli ho detto: guarda, lascia stare che è un cretino. Cioè, uno come Quincy Jones, capito? Vabbè, È successo anche di questo al Cafolinia. Giardino meraviglioso, perché il locale era fatto così: prima dentro lungo, grande più o meno, no, un po' più grande di questo, no, però molto più lungo, in muratura, e poi mio padre aveva fatto fare una come una specie di pagoda tutta di vetro a cui si accedeva da questo locale. Cioè aveva buttato giù un pezzo di muro che era come una porta così, di modo che tu passavi tranquillamente nella pagoda riscaldatissima, tutta di vetro, che dava sul giardino, non sulla strada. Guarda, c'è una foto bellissima, una sera che nevicava e vedi il sassofonista da tutti questi vetri. E poi fuori c'era il giardino che vedevi dalla pagoda perché era tutta di vetro. Era bellissimo il giardino, poi era bello perché non dava sulla strada, cioè dava all'interno, meraviglioso era. C'era una fontana con dentro un sacco di piccola, vabbè, una fontanella, però c'erano i tavoli, poi c'erano 3 o 4 gradini, salivi c'era un giardino, qua sotto invece, sotto ai questi gradini era... c'era un pavimento di pavimento normale, no? Per cui lì non c'era il verde. Però come facevi sti 3 gradini, c'era tutto verde. Bello. Film è stato fatto da un gruppo di ragazzi giovani, ma soprattutto una ragazza, una certa Marianna, che lei è un'appassionata di queste cose, che mette insieme montaggio eccetera. Lei voleva fare questo documento, docufilm su tutti sul jazz, ma in Italia. Sai che quando ha cominciato a parlare con vari musicisti tipo Nando De Luca, Tomeletto, questa gente qua, gli parlavano tutti del Capolinea, che lei ha bloccato, ha deciso di fare 2 ore solo sul Capolinea. E devo dire che è stata no brava di più, perché lei non, per ovvie ragioni di età, anche giovanissima, adesso cos'ha? Non ha neanche, cos'ha la Marianna? 31 anni, una roba così. Forse neanche, 27. L'ha fatto qualche anno fa, no, un pochino più grande dei 27. Comunque, per ovvie ragioni di età, non aveva mai messo piede in Capolinea. Eppure, se tu vedi questo docufilm, come ha azzeccato l'atmosfera della cosa, veramente, guarda, è stata bravissima. E lei... poi insieme a Christian Meyer, che è il batterista di... lo conosci? Che è un mio carissimo amico, lui è cresciuto musicalmente lì, perché sopra noi avevamo una scuola di batteria di un certo Lucchini, che era appena arrivato da Parigi, dove c'era la scuola di Kenny Clarke, il batterista famoso. Allora gli ha chiesto a mio papà: dammi una stanza per insegnare musica. E Christian Meyer è nato lì musicalmente, è cresciuto lì al Capolinea. Allora mi telefona un giorno il Christian e mi dice: guarda che abbiamo organizzato una serata al Palazzo delle Stelline, sai dove c'è quel monumento, sì, orribile di Cattelan, l'egolo lì. dice, è dedicato a questo documentario sul capolinea. Era l'agosto del 2006-2007, non mi ricordo. E io dico, ah va bene, sono contenta, infatti sul Corriere ho fatto un bell'articolo, tutta una pagina. Arriviamo a quella serata lì, io gli faccio a mia sorella, siccome una era in Sardegna, quella che faceva la musica, gli ho detto, ma no, stai lì, ma sì, arriverà qualcuno. La gente, Tommaso, la gente, sai che mi sono commossa. Addirittura gente che non è riuscita a entrare e che poi il giorno dopo mi hanno fatto una marea di storie sui social, però chi l'ha organizzato? Io venivo sempre in capolinea. Non l'abbiamo organizzato noi, gli ho detto, l'ha organizzato il Christian con la Marianna, questa ragazza qua. Guarda, è stata una serata magnifica, non credevo, sono venute quasi 1000 persone. Mm-hmm.